Geremia capitolo 46. Riguardo all'Egitto, circa l'esercito di Faraone Neco, re d'Egitto, che era presso al fiume Eufrate a Carmesh, e che Nabucodonosor, re di Babilonia, sconfisse il quarto anno di Gioiachin, figliolo di Giosia, re di Giuda. Preparate lo scudo e la targa e avvicinatevi per la battaglia. Attaccate i cavalli e voi cavalieri montate e presentatevi con gli elmi in capo. Forbite le lance e indossate le corazze, perché io vi veggo sbigottiti, io vi veggo volti in rotta. I loro prodi sono sconfitti, si danno alla fuga senza volgersi indietro. D'ogni intorno è terrore, dice l'Eterno. Il veloce non fugga, il prode non scampi. Al settentrione, presso il fiume Eufrate, vacillano e cadono. Chi è colui che sale come il Nilo e le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi? È l'Egitto che sale con me, il Nilo le cui acque s'agitano come quelle dei fiumi, e gli dice: io salirò, ricoprirò la terra, distruggerò le città e i loro abitanti. All'assalto, cavalli, al galoppo, carri, si facciano avanti i prodi, quei d'Etiopia e di Put che portino lo scudo e quei di Lud che maneggiano e tendano l'arco. Questo giorno per il Signore, per l'Eterno degli eserciti, è giorno di vendetta in cui si vendica dei suoi nemici. La spada divorerà, si sazierà, si inebrierà del loro sangue, poiché il Signore, l'Eterno degli eserciti, immola le vittime del paese del settentrione presso il fiume Eufrate. Sali a Galaad, prendi del balsamo, vergine figliuola d'Egitto. Invano molteplichi rimedi, non v'è medicatura che valga per te. Le nazioni odono la tua ignominia e la terra è piena del tuo grido, poiché il prode vacilla appoggiandosi al prode, ambedue cadono assieme. Parola che l'Eterno rivolse al profeta Geremia sulla venuta di Nabucodonosor, re di Babilonia, per colpire il paese d'Egitto. Annunziatelo in Egitto, banditelo a Migdol, banditelo a Nof, a Tempanes, e dite: levati, preparati, poiché la spada divora tutto ciò che ti circonda. Poiché i tuoi prodi sono essi atterrati, non possono resistere, perché l'Eterno li abbatte. Egli ne fa vacillar molti, essi cadono l'un sopra l'altro e dicono: andiamo, torniamo al nostro popolo e al nostro paese natio, sottraiamoci alla spada micidiale. Là essi gridano: Faraone, re d'Egitto, non è che un vano rumore, ha lasciato passare il tempo fissato. Com'è vero che io vivo, dice il re, che a nome l'Eterno degli eserciti il nemico verrà come un Tabor fra le montagne, come un Carmel che s'avanza sul mare. Oh, figliuola che abiti l'Egitto, fai il tuo bagaglio per la cattività, poiché Nof diventerà una desolazione, sarà devastata, nessuno vi abiterà più. L'Egitto è una giovenca bellissima, ma viene un tafano, viene dal settentrione. Anche i mercenari che sono in mezzo all'Egitto sono come vitelli da ingrasso. Anch'essi valgono poco, volgono il dorso, fuggono tutti assieme, non resistono, poiché piomba su di loro il giorno della loro calamità, il tempo della loro visitazione. La sua voce giunge come quella d'un serpente, poiché s'avanzano come un esercito, marciano contro a lui con scuri come tanti tagliaboschi. Essi abbattano la sua foresta, dice l'Eterno, benché sia impenetrabile, perché quelli sono più numerosi delle locuste, non si possono contare. La figliuola dell'Egitto è coperta d'onta e data in mano del popolo del settentrione. L'Eterno degli eserciti, l'Iddio di Israele, dice: ecco, io punirò Amon di No, faraone d'Egitto, e i suoi dei, i suoi re, faraone e quelli che confidano in lui, li darò in mano di quelli che cercano la loro vita, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, e in mano dei suoi servitori. Ma dopo questo l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima, dice l'Eterno. Tu dunque non temere, o Giacobbe, mio servitore, non ti sgomentare, o Israele, poiché ecco io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua progenie dalla terra della sua cattività. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Tu non temere, o Giacobbe, mio servitore, dice l'Eterno, poiché io son teco, io annienterò tutte le nazioni fra le quali t'ho disperso, ma non annienterò te. Però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito.